Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Un variopinto abito, un corto giubbetto e un paio di pantaloni attillati, entrambi a losanghe e triangoli di tutti i colori. Un accento che muta e passa dal bergamasco al veneto. Ingenuo e burlone, candido e collerico, portato a combinare scherzi di ogni tipo e in grado di cacciarsi nei guai peggiori e più complicati. E Arlecchino, ed è lui, la coloratissima figura attorno a cui ruotano le storie dei due protagonisti di oggi, di Destini incrociati. Arlecchino è forse la più celebre delle figure della commedia dell'arte. Le sue radici risalgono al 1500, come racconta il grande Dario Fo. Il più famoso dei Gramlò è quello degli Zanni. Zanni. Zanni è il prototipo di tutte le maschere della commedia dell'arte. È il padre delle maschere più importanti, tipo per esempio Arlecchino, Brighella, eccetera, eccetera. Ma non è un personaggio inventato, è un personaggio reale. Lo Zanni, come personaggio, è addirittura legato a una categoria di persone, meglio dire una classe sociale. I contadini delle valli di tutto il Po, delle montagne che si riversano poi sulla piana del Po. Ben presto la maschera di Zanni ha lasciato spazio nella tradizione a servitori con nomi propri che hanno fatto la storia della commedia dell'arte. Frittellino, Beltrame e Brighella, Pulcinella, Mezzettino e Truffaldino e infine Arlecchino. Per arrivare nel cuore della nostra storia, è necessario anche dire cos'è la commedia dell'arte, un genere teatrale nato a metà del Cinquecento che vedeva attori per la prima volta professionisti improvvisare con straordinaria abilità su un breve testo scritto che riepilogava la trama per sommi capi, detto canovaccio. Per 200 anni la commedia dell'arte spopola, vivendo la sua grande stagione nel 600 e poi imboccando la via del declino. Una discesa fatta di volgarità e scurrilità eccessive che iniziano a cozzare con il nuovo gusto settecentesco, rappresentato in Italia e a teatro dal borghese veneziano Carlo Goldoni. Goldoni è il letterato italiano che smonta la commedia dell'arte e con la sua riforma del teatro lo conduce verso la modernità, reintroducendo la centralità del copione e sorvegliando la creatività degli attori per convogliarla verso il progetto artistico dell'autore. Prima di smantellare la commedia dell'arte con gradualità, introducendo poco a poco il copione scritto ed eliminando le maschere per cercare maggiore realismo, Goldoni compone dei canovacci. Uno di questi si intitola Arlecchino, servitore di due padroni. Il canovaccio, composto tra il 1745 e il 1746, spopola a partire dal 1746 nel teatro veneziano di San Samuele. Immaginiamoci la scena, il teatro gremito di ricchi e impettiti nobiluomini veneziani e di altolocati borghesi, in una atmosfera rarefatta che mescola le convenzioni della bella società alla serenità di una risata, che assistono estasiati al piccolo gioiello comico di Goldoni. Carlo Goldoni, però, insoddisfatto dello scarso controllo sull'opera, decide di scrivere una commedia nei minimi dettagli a partire da quel canovaccio. Carlo Goldoni, grande autore di teatro del 1700, autore veneto, italiano ed europeo, scrisse il suo Arlecchino servitore di due padroni dopo aver visto la rappresentazione che ne aveva fatta un grande Arlecchino del suo tempo, il Sacchi. Era una rappresentazione della commedia dell'arte, cioè di un modo di fare teatro all'improvviso, su una trama, inventare delle parole da parte di attori straordinari, quali erano questi attori italiani della commedia dell'arte, cioè della commedia del più grande artigianato, del più grande mestiere del teatro. Essi inventavano le parole sera per sera, nelle situazioni più diverse, e davano vita ad un genere di teatro che si è perduto per sempre nel tempo con la scomparsa delle ultime generazioni degli attori e dei comici. Nella stesura della sua commedia e nell'elaborazione della sua riforma, Goldoni ha una visione del mondo rigorosa e molto moderna. La riforma di Goldoni fu proprio un nuovo modo di pensare il teatro, un nuovo modo di recitare, di far recitare, un nuovo modo di concepire la funzione del drammaturgo, per esempio. Quindi questa idea del teatro come una scuola di mondo, come il teatro una scuola di vita in un certo senso, il teatro come una metafora, una parafrasi di quello che avviene nella società intorno. Quindi ebbe un'idea molto alta del teatro e egli la spiegò come una riforma semplicemente di commedia, dalla commedia dell'arte alla commedia borghese scritta. A testimoniare questa nuova visione del mondo giunge, fra le oltre 100 commedie composte da Goldoni, Truffaldino, servitore di due padroni, la riedizione del vecchio canovaccio su cui il grande Sacchi aveva improvvisato. Al centro della commedia ora troviamo al posto di Arlecchino Truffaldino, servo di due padroni, che per non svelare il suo inganno e per perseguire il suo unico intento, ovvero mangiare a sazietà, intreccia la storia all'inverosimile, creando solo equivoci e guai. 200 anni dopo, nel cuore della Milano da ricostruire dopo i bombardamenti, anche culturalmente, dopo la tragedia della guerra, Giorgio Strehler compie uno dei suoi tanti capolavori di una carriera straordinaria. Recupera il testo goldoniano, forza la mano, sostituendo Truffaldino con l'antica maschera Arlecchino, e trova un attore straordinario nelle vesti del servitore burlone, il nostro primo personaggio di oggi, Marcello Moretti. Marcello Moretti. Marcello ha 30 anni quando Strehler lo sceglie per il suo Arlecchino. Classe 1917, è cresciuto a Mestre, dove il padre possiede un'officina meccanica che garantisce a stento il pane quotidiano alla famiglia. Così gli anni dell'adolescenza sono difficili e Moretti frequenta le scuole dell'obbligo, ma a 14 anni deve interrompere gli studi per impiegarsi facchino in un grande albergo di Venezia. Dall'inizio degli anni 30 fino al 1938 per Moretti è un continuo passaggio da un lavoro a un altro, tutti piuttosto improvvisati, mentre porta avanti il sogno di diventare maestro elementare, per inseguire il quale frequenta le serali delle magistrali e ottiene finalmente il diploma, che non gli servirà a nulla perché mai riuscirà a esercitare la professione. Già perché nel 1938, si dice su suggerimento della madre, decide di iscriversi all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, dove si diploma 2 anni dopo. Durante il periodo bellico e negli anni immediatamente successivi, Moretti lavora in diverse compagnie primarie, ricoprendo il ruolo di generico, una specie di jolly, e facendosi notare per la dedizione al lavoro e la serietà professionale. Attraversa l'Italia con la giovane compagnia Spettacoli F di niente meno che Vittorio De Sica, dove ha l'onore di essere anche diretto da Luchino Visconti in un piccolo ruolo nel Matrimonio di Figaro. Nel marzo 1947 viene scritturato nella prima compagnia del Piccolo Teatro di Milano da Paolo Grassi, che da tempo lo conosce e stima. È il primo passo verso Arlecchino. Grassi lo considera così. Marcello è un uomo scontroso e di poche parole, un uomo del popolo, abituato al lavoro, alla serietà della vita e della professione, avviato dal destino ad una popolarità mondiale, contraria alla sua indole schiva, riflessiva, umanamente raccolta. Grassi lo informa che tutti gli attori del piccolo avrebbero dovuto essere disposti a interpretare sia ruoli da generico sia ruoli da protagonista. Moretti, sottoscrivendo il contratto, risponde così. Sai che come parti non sono di grandi pretese. Me ne basta una di veramente buona. Per il resto mi accontento. Riguardo al repertorio, mi fidavo del vostro buon gusto e della vostra serietà. Quello che più mi interessava era sapere chi erano i registi e gli attori. Sai che ho sempre bisogno di essere fra persone comprensive. Odio i mattoni, le cappe di piombo, mi capisci? Spero molto che ci sia Giorgio. Avrei molto piacere di lavorare con lui. E Giorgio Strehler, per intenderci, lo inquadra subito come attore. Non raffinatissimo nella dizione e nel portamento, ma efficacissimo, espressivo, dinamico, naturalmente votato alla comunicazione dell'ingenuità attraverso un uso originalissimo del corpo. Per Strehler, che ha in testa la riproposizione della commedia goldoniana, è l'Arlecchino perfetto. Un ruolo che peraltro lo stesso Moretti ha già ricoperto. La prima volta che indossai i panni di Arlecchino fu durante un saggio di recitazione all'Accademia di Arte Drammatica a Roma, in quanto un regista aveva scelto per quel saggio Arlecchino servo di due padroni. Naturalmente non era allora l'Arlecchino di oggi, però fui notato da Guido Salvini che mi promise una scrittura, promessa che fu adempiuta qualche tempo dopo. Arlecchino, come un po' tutte le maschere, non è un personaggio facile. E molti furono i miei studi su testi anche dell'epoca per avvicinarmi il più possibile alla tradizione, sia pure con un'infarinatura di modernità. Arlecchino è parente strettissimo di Pulcinella. Come lui è un personaggio famelico e sitibondo, servitore inservibile di tutti i suoi padroni, tonto nel combinare pasticci e furbo nel trarsi d'impaccio. Anelante allo zecchino e pago d'una polpetta. Mezzano per costrizione e amante della servetta per vocazione. Attacca brighe, acchiappa nuvole, di lingua lesta e di groppa dura. Specchio pressoché fedele di tutta l'umanità servile dell'epoca in cui fu espresso e agì. In questo ruolo mette a disposizione della fantasia creativa del regista non solo le proprie abilità fisiche, ma anche la prontezza del gesto e della battuta. Streller, infatti, durante le prove fissa alcune trovate sceniche nate dal lavoro con Moretti, che contribuiscono alla straordinaria fortuna dello spettacolo. Streller racconta anche che Moretti per primo scopre che recitare con il volto coperto può intensificare l'espressività se si considera che la bocca acquisisce una straordinaria importanza. Appena sottolineata da una riga bianca, la bocca che usciva dalla parte superiore del viso mascherato, mobile e viva, acquistava un valore espressivo incredibile. Dal palco del piccolo al teatro del mondo. Da quel debutto datato 1947, in 13 lunghi anni, Marcello Moretti rappresenta il suo ruolo più di 700 volte. In 105 città di 26 paesi, dagli Stati Uniti alla Russia, dal Sud America all'Africa. Ogni genere di pubblico si spella le mani applaudendo il suo grande Arlecchino. Nelle tre edizioni complessive dello spettacolo, attorno a lui si avvicendano i più celebri attori dell'epoca. L'unico e insostituibile protagonista, però, è sempre lui, sempre Moretti, il quale finisce però con il far coincidere il suo lavoro di attore con il ruolo di Arlecchino. Streller, in un suo volume autobiografico, racconterà il complesso rapporto instaurato dall'attore con il personaggio, che Moretti sentiva come una limitazione crudele alle sue possibilità di esprimersi in altre dimensioni sul palcoscenico. Questa maschera che egli aveva indossato un giorno aveva finito per diventare un suo secondo modo di essere, nel teatro. Marcello, ad un certo punto, per il pubblico e per i teatranti, si identificava con la sua maschera. Egli era un attore difficile e assai particolare, limitato nel suo fisico e limitato nel suo organo vocale, pesante, non sempre limpido nella dizione e soprattutto non sempre in accordo con la sua figura scenica. Ma in questo limite raggiungeva sempre risultati di altissimo valore. Marcello ottenne questo risultato, questa densità espressiva, semplicemente recitando il piccolo personaggio con la chiarezza, la dedizione, la concentrazione che l'attore in genere, e quello italiano in particolare, concede solo ai grandi personaggi. Io non ricordo una sola volta in cui, durante una recita, il diario privato dell'attore Moretti abbia inciso sul personaggio che egli interpretava. Né fatti fisici, né morali. Chi conosce la fatica interiore delle innumerevoli repliche di uno spettacolo, davanti a pubblici diversi, talvolta spogli, talaltra indifferenti o entusiasti, sa cosa voglio dire. È una tensione a cui pochissimi resistono, un rituale troppo ripetuto per mantenere intatta la sua freschezza iniziale, la sua carica interiore. Centinaia di volte Marcello indossa quella maschera, centinaia di volte fa ridere il suo pubblico. È il mestiere dell'attore, non importa quale sia lo stato d'animo che si cela sotto, non importa se Moretti non si sente per niente Arlecchino, il pubblico vuole quello e va accontentato. Marcello Moretti diventa quindi in tutto il mondo semplicemente Arlecchino. Dopo Sacchi, che nel 1700 era stato il più grande Arlecchino della commedia dell'arte, Marcello Moretti scrive il suo nome tra i grandi del teatro. Tuttavia, per alleggerire il peso di quel ruolo che costituiva un vincolo così forte, Moretti inizia a sentire il bisogno di un sostituto all'altezza, di un giovane attore in grado di prendere il suo posto in alcune sporadiche rappresentazioni e che lui stesso possa allevare e scegliere. Ne parla con Streller e ottiene il via per questa operazione. Così si mette alla ricerca. Una ricerca che lo porta un giorno al saggio di fine anno dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, chiamato dall'insegnante Silvio D'Amico per vedere La figlia obbediente di Carlo Goldoni, altra commedia in cui compare la figura di Arlecchino. Qui incontra un giovane uomo a cui cambierà la vita. Si chiama Ferruccio Soleri. Ferruccio Soleri. Il mio insegnante, che era anche il direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, a Roma, mi disse dopo 2 mesi: Soleri, tu sei un Arlecchino. Io ho detto: ma dottore, io sono fiorentino, non sono mai stato a Venezia, io non so nulla. E dice: no. E difatti al secondo anno mi ha fatto fare un Arlecchino come saggio finale dell'Accademia, dell'anno, del corso, un Arlecchino nella Figlia obbediente di Goldoni, che è un piccolo ruolo, non è un grande ruolo, però dico: ma come faccio? Non ti preoccupare, qui c'è Gastone Moschin, Lucia Catullo, che sono veneti, insegnano il Veneto, poi verrà Marcello Moretti a aiutarti per i movimenti, le cose. E Marcello Moretti non è mai venuto, perché con Strele, che è qualcosa che ho scoperto poi dopo, le prove non finivano mai, quindi non aveva mai tempo di venire. E allora mi sono messo da solo a andare alle ricerche nelle biblioteche, sui documenti, sui personaggi, sugli attori che avevano fatto Arlecchino, per sapere come mi dovevo muovere, cosa dovevo fare. Poi Moretti venne alla prova generale, e allora alla fine della prova generale gli dissi: allora mi dica cosa è che devo cambiare. Dice: no, non cambi niente. Ma come, a me non dica una cosa? No, ho detto: mamma mia, non dire. Si vede che faccio tutte cose sbagliate, non me ne dice nemmeno uno. Invece era rimasto ben impressionato, ne parlò con Streller, che poteva essere un suo sostituto, e così. E così Ferruccio Soleri diventa il sostituto di Moretti nello spettacolo di Streller quando ha meno di 30 anni. Il destino ha in serbo per lui un percorso tortuoso e affascinante. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati vi sta raccontando una storia in maschera. La maschera di Arlecchino, che con i suoi lazzi e il suo costume variopinto accompagna la vicenda dei nostri due personaggi di oggi, i grandi Arlecchini del Novecento. Marcello Moretti prima e Ferruccio Soleri poi. Il primo diventa Arlecchino a 30 anni e lo diventa presto in tutto il mondo. Il secondo diviene il suo sostituto. Il destino però gli ha preparato una vita in maschera nei maggiori teatri di tutto il mondo. Soleri ha la fortuna, da sostituto di Moretti, da lui stesso scelto e designato, di poterne studiare da vicino le mosse, la bravura e la disciplina, e di arricchire il suo già straordinario talento. Il mio debutto è stato come suo sostituto una volta alla settimana negli Stati Uniti, perché in America, negli Stati Uniti, c'è i sindacati, le unions, che prevedono che per uno spettacolo il protagonista assoluto, almeno una volta alla settimana, il ruolo del protagonista deve essere recitato da un altro attore. E quindi quando il piccolo è andato la prima volta negli Stati Uniti in tournée, doveva portare un sostituto. Al debutto Soleri impressiona subito per l'originalità del suo approccio. Il suo modello è certamente Moretti, ma il suo Arlecchino è già diverso, personale, originale, dinamico. Cioè, quasi normale, perché ci davamo del lei, non ci davamo del tu. Vabbè, c'era molta differenza di anni, ma insomma. Ma era un rapporto normale. Io cercavo di imitarlo, perché dovevo sostituirlo. Nel dicembre 1959, Marcello Moretti si allontana dal piccolo per lavorare con la compagnia diretta dal regista Franco Enriquez. Durante questa tournée, Moretti ha alcuni problemi di salute che lo obbligano a sospendere la tournée e a fare il ritorno a Roma. Morirà il 18 gennaio 1961 a seguito di un collasso cardiaco. La morte di Moretti lascia sgomento il mondo del teatro. La riscoperta della commedia dell'arte e il grande successo dell'Arlecchino rivisitato da Streller perdono il grande protagonista. Siccome le regole dello spettacolo ferree e auree al tempo stesso prevedono che lo spettacolo debba andare avanti, il talentuosissimo sostituto di Moretti, il giovane Ferruccio Soleri, prende il suo posto. È il 1963 quando Soleri indossa in via definitiva i panni di Arlecchino. Non li smetterà mai. Yeah. Chi è però Ferruccio Soleri? Quali sono stati i passi che l'hanno portato a indossare i panni della più prestigiosa maschera della commedia dell'arte? Soleri, classe 1929, fiorentino, è un giovane studente universitario di matematica e fisica quando viene folgorato dalla bruciante passione per il teatro. Una passione che diventerà presto un mestiere. Per chi era all'università, a Firenze, al CUT, al Centro Universitario Teatrale, e facevamo, perché fin da piccolo amavo il teatro, e quindi perché i miei mi comportavano a teatro. E lì ho partecipato al CUT, al Centro Universitario Teatrale, a Firenze, dove c'era Renzo Montagnani, Paolo Poli, Gianna Giachetti, Ilaria Occhini, e il regista era Beppe Menegatto. Sono stati loro che mi hanno spinto, dai, andiamo all'Accademia, facciamo quella. E così sono andato in Accademia. L'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma è una delle più efficaci fucine di talenti del teatro italiano sin dal 1936, sin da quando Silvio D'Amico, grande uomo di teatro e scrittore, l'ha fondata. Orazio Costa era il direttore dell'Accademia e anche l'insegnante di recitazione, e lui era veramente straordinario, perché quando un attore recitava dice: ma guarda, in questo momento tu sei... devi avere questo sentimento, questo stato d'animo, non lo si sente. E quindi cercava sempre dagli attori, dagli allievi, di tirar fuori il più possibile le situazioni, i sentimenti. Come Arlecchino, Soleri inizia nel 1963 la sua straordinaria avventura. Le prime grandi tournée lo celebrano subito come un grandissimo erede di Marcello Moretti. La grande forza di Soleri sta nella determinazione con cui cerca di percorrere vie diverse dal suo predecessore, cerca di dare originalità al suo personaggio. Un po' diversi lo siamo. Ecco, io ho portato l'agilità, diciamo così, le acrobazie. Moretti non faceva le acrobazie, le ho portate io, sollecitato da Streller, perché non è che io mi inventavo le cose, lui mi provocava, mi spingeva e io... Il rapporto con Giorgio Streller è uno dei capisaldi della carriera di Soleri. Il grande regista milanese è una fonte inesauribile di stimoli per Soleri e per tutti coloro che lavorano a stretto contatto con lui. Streller spinge l'attore a una ricerca costante sul personaggio, per trovare nuove sfaccettature e una piena sintonia con la popolare maschera. Streller è un perfezionista e pretende il massimo da Soleri, che accetta di buon grado la sfida e crea un Arlecchino unico, destinato a rimanere nella storia. Beh, i primi anni, diciamo così, anche spinto da Streller, andavo a cercare a perfezionarlo, cioè a trovarlo veramente che fosse giusto come lo interpretavo. Difatti spesso Streller mi correggeva, mi diceva: no, questo non puoi fare in questo momento qui, qua, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Poi a un certo punto non mi ha detto più osservazioni, allora l'ho mantenuto tale quale. Il perfezionismo di Streller è noto e anche molto temuto nel mondo del teatro. Il regista ha la fama di essere un autentico aguzzino durante le prove, quando non esita a utilizzare anche metodi piuttosto energici e parole aggressive per pungolare i suoi attori e cercare di tirar fuori da loro il meglio. Io ho visto piangere anche bravissimi attori o attrici, piangono, non mi stimano, no, invece lui era veramente un perfezionista e quindi voleva cercare da ciascuno tirar fuori il massimo. Eppure Soleri ha tra i suoi ricordi più cari un bellissimo complimento che proprio Giorgio Streller gli rivolge dopo numerosi anni di collaborazione. Un maestro veramente importante, mi ha dato tanta soddisfazione, è dato quando nel 1990, roba del genere, mi disse: ma Ferruccio, come fai tu che diventi sempre più vecchio e il tuo personaggio diventa sempre più giovane? Io, questa è la cosa più bella che mi avesse potuto dire. Ecco, questa è la cosa importante che ricordo di Streller. Eh sì, perché Ferruccio Soleri è un caso più unico che raro. Un attore da Guinness dei primati per più di 50 anni nello stesso personaggio e nello stesso spettacolo, crescendo, maturando, gioendo e disperandosi sotto il costume colorato di Arlecchino. Destini incrociati. Marcello Moretti e Ferruccio Soleri, due attori, un personaggio, Arlecchino. Due vite intere trascorse su un palcoscenico e con il volto coperto da una maschera. Ferruccio Soleri in particolare vive una carriera da recordman, oltre 50 anni nei panni dello stesso personaggio. Ovvio che tra attore e personaggio alla lunga si crei un rapporto molto stretto. I due però hanno evidentemente una cosa in comune. l'ingenuità, perché Arlecchino è un ingenuo, anch'io sono un ingenuo, e poi l'amore per la vita, che anch'io amo molto la vita come l'amava, l'ama il personaggio Arlecchino. Dal 1947 ad oggi lo spettacolo conta 2200 repliche ed è arrivato alla 13ª edizione. L'Arlecchino strelleriano è sorprendentemente agile, buffonesco, incastonato in un palco metateatrale intorno e dentro al quale agiscono i vari personaggi. Sul proscenio, una fila di candele che vengono accese all'inizio della rappresentazione e spente al suo termine, fanno da filo conduttore tra il teatro moderno e la perduta tradizione della commedia dell'arte, cui diversi allestimenti di Streller guardano con nostalgica e sempre rinnovata passione. Arlecchino, servitore dei due padroni, è lo spettacolo più antico, più rappresentato e forse anche il più celebre del piccolo teatro. Nato nel 1947, ha continuato a rinnovarsi anno per anno, qualche volta con delle lievi modificazioni e qualche altra volta invece con delle nuove e vere edizioni, con nuovi attori, nuove scene, nuovi costumi e nuove musiche, restando però miracolosamente sempre se stesso. L'Arlecchino, servitore di due padroni, gira tutto il mondo. Viene rappresentato davanti a ogni tipo di pubblico, raccoglie sempre entusiasmo. Si rinnova, si trasforma, ma è sempre un successo. Un successo che sopravvive al suo demiurgo. Nel 1997, infatti, Giorgio Streller muore. Non il suo Arlecchino, quello no. Nella scintillante forma del suo allestimento, l'Arlecchino servitore continua il suo viaggio per i palcoscenici mondiali, resistendo alla prova del tempo. I must warn ya about the motherfucking government of California. Alabama baby said hallelujah, good doctor, I wish you knew ya. Ancora oggi l'Arlecchino strelleriano è il volto di Ferruccio Soleri. Sono passati 15 anni da che Streller non c'è più. Di anni Soleri ne ha quasi 84. Eppure continua a vestire i panni dell'affamatissimo servitore veneziano con grande efficacia. Ma io ho un sostituto. Quando ci sono due spettacoli al giorno non li posso fare, perché alla mia età è un pochino rischioso. Il medico mi dice meglio non farli. Io ce l'ho uno che è quello che fa Brighella normalmente, che non è stato mio allievo, perché lui ha provato Arlecchino prima ancora che venisse al piccolo teatro. Chi ha visto le ultime prove di Soleri non può non rimanere sorpreso. Come un giovincello, Ferruccio saltella per il palco qua e là. Nulla nel suo approccio al personaggio e nella sua performance sembra tradire i segni dell'età. Merito della straordinaria tempra di Soleri, ma anche del suo stile di vita morigerato e sorvegliato. Beh, quando devo fare l'Arlecchino, due mesi prima comincio a fare lo stretching, faccio un'ora di stretching al giorno, e poi quattro piani due volte al giorno di scale di corsa per il fiato e il cuore, le scale, invece per lo stretching per scioltezza di muscoli e di articolazioni. In tutto il mondo i teatri continuano ad essere gremiti. La gente si accalca a seguire la vicenda di questo semplice, candido eroe. A volte l'italiano goldoniano risulta impossibile da comprendere all'estero. Eppure, vuoi per la recitazione di Moretti, vuoi per l'allestimento sublime di Streller, la storia passa, arriva a destinazione come una sorta di magia comunicativa la cui ricetta è veramente difficile da spiegare. Perché la commedia è semplice, molto banale, non è un testo psicologico, non ci sono delle ricerche. E la gestualità che si deve fare con la commedia dell'arte, perché avendo le maschere non bisogna i sentimenti esprimerli non solo con l'espressione del volto, che non si vede con la maschera, ma attraverso il colore della voce, delle battute, e la gestualità e le posizioni, eccetera. E questo permette al pubblico, che anche non capisce la lingua, di capire e di divertirsi lo stesso. E difatti mi ricordo il successo più grosso, credo che sia stato in Cina, che mi ricordo bene, che alla fine dello spettacolo non riuscivo ad andare in camerino a cambiarmi, perché si inginocchiavano, baciavano le mani, di tutti i colori, perché erano entusiasti dello spettacolo, riuscivano a capire pure con una lingua talmente diversa da loro e la cultura anche maggiore diversa, e riuscivano a capire e divertirsi, incredibile. Perché quello di Arlecchino è un messaggio semplice, senza tempo. La semplicità d'animo è il vero elisir di lunga vita. E lunga vita quindi a Ferruccio Soleri e alla memoria di Marcello Moretti, i grandi arlecchini del nostro tempo. Notte chiara, notte bella, sopra i libri non ti avevo letto mai. Mi hanno detto fermati, non mi hanno chiesto mica dove vai. Arlecchino è lì sospeso, ma il filo sotto i piedi non ce l'ha. E anche questo in fondo è libertà. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.